voce della crisi al gran distante. Io so che questi figli se ne dava il servizio, riesco a prendere il fresco una mezz'ora. Il fresco, il fresco.